Ai microfoni di Radio Wombat, Robert Whittaker ha presentato quest'oggi il suo libro Indagine su un'epidemia presso il CSM Next Emerson. Qui con noi, compagni e le compagne del collettivo antipsichiatrico Antonino Artaud. Iniziamo un minimo dal libro, se ci spiega in breve di cosa si tratta. Yeah, so this book really looks at this. We've had this particular form of care now for about 35 years, which is a form of care organized around the idea that psychiatric disorders are illnesses of the brain. They're physical illnesses, and that they therefore need to be treated with drugs, and often drugs taken continually. But what we've seen, and this is what I'm writing about in this book, once we've adopted this belief system and this widespread use of medications, you see the burden of mental illness, the cost of mental illness, the toll of mental illness, the number of people who are mentally ill has grown exponentially in the United States. And it has happened in every country that has adopted this way of thinking, this way of conceptualizing mental disorders. Rather than seeing psychiatric problems become a lesser problem for society, you see the problems become much greater. Nel libro analizziamo soprattutto come negli ultimi 35 anni abbiamo seguito una storia in cui i disordini mentali venivano trattati con dei medicinali. Però vediamo che chi ha seguito questa storia partendo dall'America e poi andando in altri paesi, in realtà con l'aumento dell'uso dei farmaci abbiamo un aumento anche dei disordini mentali. Bene, tutto questo chiaramente è un paradosso e ci sono dei motivi ben precisi per il quale è successo e sta succedendo questo, se ce li puoi brevemente illustrare. So that's one of the questions in the book is, so you present the problem, or as you said, a paradox, and then you want to look for the reasons why. And really, in a way, there's two reasons why. One, we're diagnosing many more people today, so they've expanded the boundaries of who is going to be seen as mentally ill, okay? Dramatically expanded. And that's just because you can define illness wherever you want to define it in psychiatry, so they've made the boundaries very big, which means more people are getting treated. And the problem, and you can see this in the scientific literature, is twofold with the drugs. One, they may be effective over the short term on a target symptom, but over the long term, they increase the likelihood that people will remain symptomatic. That's number one. Number two, they increase the likelihood that a person will become functionally impaired, unable to work. And then the third thing you see, and you really see this with antidepressants, they increase the likelihood that someone who starts with a mild disorder, say depression, will then have a manic reaction in response to the antidepressant, and now they become bipolar, which is a much more serious disorder. So really it's three things. The drugs increase the chronicity of the disorder, they increase the likelihood of impaired function, and for some people they make you have a more severe disorder. Vediamo come ci sono diverse motivazioni per questo paradosso. Innanzitutto le persone che vengono diagnosticate, il numero di persone che viene diagnosticato è maggiore, perché anche i limiti della diagnosi sta aumentando, per cui sempre più persone si ritrovano a essere diagnosticate con un disordine mentale. E questo è collegato ai farmaci. I farmaci sono usati sempre di più perché più persone sono diagnosticate e questo ci viene spiegato tramite degli studi scientifici che analizzano l'effetto dello psicofarmaco a breve termine, però in realtà a lungo termine non sappiamo l'effetto e soprattutto non sappiamo se l'effetto è positivo sui pazienti. Per cui abbiamo le malattie mentali che stanno diventando croniche piuttosto che passeggere o a episodi. La storia dei farmaci a volte ci ha anche insegnato che magari sono partiti in modo piuttosto grossolano per poi andarsi a affinare e quindi magari andare ad essere sempre più selettivi sulla patologia. Può essere il caso dei farmaci utilizzati nei problemi psichiatrici? Our drugs being more and more selective. More and more selective. So the drugs have been marketed as more selective, as if they're honing in on our specific problem, okay? That there's a molecule they're fixing. That's just marketing copy. They're actually very broad acting, even the ones that are said to be selective. So they're acting on many, many molecules. So when you hear that the drugs are more selective, more targeted, that's just marketing spin. It's not scientific. Allora, in realtà si tratta di una tattica commerciale perché sì, gli psicofarmaci ci vengono presentati come sempre più specifici che agiscono su una molecola precisa, ma in realtà sono comunque farmaci a ampio raggio e le molecole su cui agiscono sono molteplici, quindi è solo un trucco commerciale. Trucco commerciale che nel trucco commerciale che nel suo testo viene appunto presentato proprio come un'operazione di marketing, soprattutto quando si va a parlare di un bilanciamento, di un equilibrio chimico proprio, se non erro. So we're talking about chemical balances. Yeah, so one of the ways that the American Psychiatric Association built the market up for these drugs was to say that the people had a chemical imbalance in the brain and the drugs fixed those chemical imbalances like insulin for diabetes. And with that story, that means that they should have found that in people who are depressed that they actually have a chemical imbalance. They should find what's wrong. Or they should have found that people with schizophrenia have a certain chemical imbalance before they go on the drugs. And what you find in the science, they just never found that. So they hypothesized it was going to be true, but they didn't find it. And that's the problem. You have a story told to the public that is out of sync with the story told in the scientific literature. Sì, quando si parla di squilibrio chimico, ci viene raccontato che lo squilibrio chimico viene risolto dai farmaci, proprio come l'insulina viene data a chi soffre di diabete. Ma in realtà se andiamo a guardare i pazienti che soffrono di schizofrenia, non abbiamo dei dati scientifici che dimostrano che la loro schizofrenia è dovuta a uno squilibrio chimico. E, quindi questo è il problema, perché la storia che ci racconta no, è una storia molto diversa da quella raccontata dai dati scientifici. Andando nello specifico, io ci terrei a menzionare la Janssen Pharmaceutical per quanto riguarda la produzione di farmaci sulla depressione. E una curiosità, fra l'altro, la Eli Lilly, che è un'azienda farmaceutica americana che ha una sede molto importante proprio a circa 100 metri dal posto dove è stato presentato il suo libro. Quindi, se brevemente ci racconta questi espedienti e se anche ci fa una delucidazione sull'utilizzo e i rischi e delle storie relative ai principali farmaci utilizzati in campo psichiatrico. Quindi, come dire, dal più pericoloso, dal più ingannevole a scendere. Of all the drugs, all the different types? Well, you know, each class of drugs has its own types of risks, okay? And this is beyond the worry about over long term that you might be causing a chronification of the very problem you're trying to treat. Quindi ogni psicofarmaco ha il suo rischio. E ogni rischio è molto legato anche all'effetto del lungo termine e di rendere la malattia cronica. But they also have adverse effects. So, for example, antipsychotics can cause muscle problems. They can make you feel like a zombie, have no emotion. They can cause metabolic problems. You can become quite fat. Hormonal problems. This is an unpleasant fact, but they do shrink the brain as well. So they cause a lot of negative effects. Those are the antipsychotics. Prendiamo per esempio gli antipsicotici, hanno numerosi effetti collaterali, fanno aumentare di peso, alterano il metabolismo, purtroppo anche riducono le dimensioni del cervello. Now the antidepressants, for example, one of the side effects that people really don't like is sexual dysfunction. So a lot of people on antidepressants end up with sexual dysfunction. They're actually much more effective at causing sexual dysfunction than they are at eliminating depression. So you have sexual dysfunction, sometimes you have gastrointestinal problems with these drugs, you can get an akathisia, which is a nervous inner agitation. Certainly in the young, they increase the risk of suicidal behaviors. And the other big risk is, frankly, they can stir mania or manic reactions that land you in a diagnosis of bipolar. Se invece prendiamo in considerazione gli antidepressivi, hanno un enorme effetto sulla disfunzione sessuale. In più provocano anestesia, che è irrequietezza muscolare, provocano disordini gastrointestinali e anche portano a comportamenti suicidi e anche al disturbo bipolare. And say for the last group of drugs, say stimulants for kids, you can see they do sometimes stir psychotic episodes in kids. So that's one thing. There's some worry that they can stir obsessive compulsive behaviors in kids. So they can cause sort of a deterioration in mood and a deterioration in in sort of psychiatric stabilization too as well. It's like with the OCD. In terms of their physical effects, there's some raising of blood pressure, that sort of thing, but they're not as quite as problematic as either the antipsychotics or antidepressives on physical problems. Per quanto riguarda l'utilizzo degli psicofarmaci sui minori, abbiamo episodi psicotici, anche ossessivo-compulsivi, alterazione dell'umore, per non parlare anche di alterazioni come la pressione del sangue. Ci ha spiegato durante l'incontro, durante la presentazione, che il boom degli psicofarmaci è iniziato a partire dal 1980 negli Stati Uniti e poi attraverso un processo che magari ci può brevemente raccontare di nuovo, si è diffuso in tutto il mondo. Yeah, so this whole story about chemical imbalances and illnesses of the brain, that depression was an illness of the brain, ADHD could be an illness of the brain, that really was started by American psychiatrists in 1980 when they wrote the third edition of their Diagnostic and Statistical Manual. They said, we're going to reconceive these things, which we used to often think were problems with living or problems with their environment. We're going to say, all these problems are just illnesses of the brain. So it gets started in the United States. Then they start telling us this chemical imbalance story. And very quickly, the sale of drugs in the United States explodes. But now pharmaceutical companies want to export this story to other countries in order to build markets in other countries. And the way they did it was this. They would bring psychiatrists from other countries to come to meetings in the United States, and they would pay their way, give them a very nice time. And then when they returned home, they would start paying those psychiatrists to be their advisors, consultants, et cetera, and they began repeating the same story. And then you got this globalization of mental health, the idea was it's medicine, so it should be the same in every country, right? And so you started seeing this peddling of the idea that drugs should be used the same as in Italy as in the United States. That's how it was done. It's been remarkably successful from a business point of view. La storia dello squilibrio chimico comincia negli anni Ottanta, quando fu pubblicata la terza edizione del manuale DSM dagli psichiatri americani, in cui la depressione, per esempio, e altri disordini mentali venivano catalogati come vere e proprie malattie mentali. E questo, anziché considerare semplicemente degli episodi brevi causati dai problemi normali della vita, incrementò tantissimo la vendita dei medicinali. E così cominciò negli Stati Uniti e presto si sparse in tutto il mondo. Come fu esportato questa storia? Semplicemente realizzando dei convegni in cui dottori da tutto il mondo venivano invitati e pagati per assistere ai convegni e sentire la storia di successo degli psicofarmaci. Dopodiché questi dottori tornavano nel proprio paese e venivano pagati dalle ditte farmaceutiche per diventare a loro volta consulenti e diffondere la propaganda della storia degli psicofarmaci. E così comincia la globalizzazione e il commercio di questi psicofarmaci, e è stata una storia di grande successo. Storia che vede fra l'altro due anni prima del 1980 l'approvazione della legge Basaglia in Italia, e quindi il che portava avanti dei principi piuttosto diversi da quelli del marketing farmaceutico, però ai giorni di oggi si può dire che il sistema sanitario e anche quello italiano ha assorbito più forse i principi delle case farmaceutiche che quelli portati avanti da Basaglia. Quindi la domanda è un po' come poter contrastare questa tendenza, come poter offrire alternative rispetto al semplice assumere delle pasticche, assumere dei farmaci. Quali alternative ci sono? What are the possible alternative solutions instead of just taking a pill? So when you talk about alternatives, you sort of have to say for which group of patients. But if you're talking about patients going into hospitals, for example, often with psychotic symptoms, we have many examples of alternative programs that have shown they can take everybody coming in the door, basically, and treat them differently. And there's a program called Open Dialogue in Northern Finland. Everybody goes through that program, doesn't matter who. In the 70s in the United States, we had a program called Soteria, which just took care of, people that otherwise would go to the hospital in a residential home. And the idea is if you could just have people that could be with people in extreme states and not get freaked out, that could be a way to help people regain their sort of emotional stability. And here's the thing. In these places where they've tried alternatives, where the force is not present, okay, and they de-escalate any sense of physical force, you find that the violence goes away. So Soteria in the United States ran for 10 years, and they had very little problem with violence, even though they were taking people brought to the place in handcuffs from police cars. Quando si parla di alternative bisogna anche analizzare per quali tipo di pazienti vogliamo presentare le alternative. Per esempio i pazienti che vengono ospedalizzati e poi fatti uscire per grandi eventi psicotici. Ci sono alcuni esempi di trattamenti diversi, per esempio nel nord della Finlandia con il dialogo aperto, oppure negli anni 70 negli Stati Uniti un programma chiamato Satiria, in cui le persone venivano messe in delle case in cui risiedevano e lì potevano stare a contatto con delle persone che si prendevano cura di loro. E si vede in questo caso come la violenza si è abbassata tantissimo in questi casi. Volete intervenire? Prego. Solo. Ciao, sono Alberto del collettivo antipsichiatrico di Pisa. La parola volevo dirla sul rispetto alla legge Basaglia, che effettivamente è stata rivoluzionaria in Italia, e anche oggi Whitaker ci diceva che è stata vista come un esempio in molte nazioni del mondo. Però ecco, effettivamente il messaggio di Basaglia è stato molto superato, purtroppo, in maniera sbagliata, e lo vediamo anche nella nostra pratica come collettivo. C'è da dire che i manicomi, come grandi luoghi concentrazionari, sì, sono stati chiusi, ma sono stati aperti 320 SPDC, cioè reparti psichiatrici di diagnosi e cura, all'interno degli ospedali, dove vengono trattati con sistemi manicomiali le persone che vengono ricoverate, e ci sono circa 3.200, forse più ormai, di strutture pubbliche o private convenzionate. Oggi abbiamo avuto anche una testimonianza di una persona che è venuta a parlarne proprio durante il dibattito, in cui vengono praticati anche, addirittura ci parlava oggi di gli mettono le pastiglie praticamente nel mangiare, senza neanche dirlo agli utenti. Per cui vengono praticate ancora sistemi manicomiali, retaggio dei grandi manicomi. Quindi si può dire che il manicomio sia diffuso. È vero, sono chiusi grandi luoghi, ma c'è stata una diffusione del manicomio un po' dappertutto, e soprattutto lo vediamo poi nelle scuole, sui migranti, come spesso vengono applicate etichette psichiatriche, diagnosi, medicalizzazione sempre più diffusa. Quindi c'è una medicalizzazione diffusa, ecco, questo è quello, ecco, che notiamo anche nella nostra pratica. Se abbiamo negli ultimi, dalla legge Basaglia in qua, abbiamo sempre teso a diminuire la contenzione fisica, però appunto aumentando la contenzione invece di tipo farmacologico, tutto questo si può considerare un processo che va nella direzione di una minor contenzione, oppure no, secondo voi? E dipende, perché una contenzione meccanica, certo, è un tipo di contenzione che dovrebbe essere ormai superata, però la contenzione chimica non è da meno. Francamente, se a me mi facessero scegliere fra l'una e l'altra, forse sceglierei la meccanica, fra l'altro. Questo è mio. Però voglio dire, quello a cui bisogna arrivare è proprio il superamento della contenzione. Un po' oggi Whitaker ci spiegava anche questo, come arrivando, l'esempio che faceva prima, la soteria, questi esempi di dialogo, di ascolto, perché effettivamente i conflitti vengono dall'esterno, insomma è inutile ricondurre sempre la persona come se fosse malata la persona. Sono conflitti che le persone hanno con la società, con la famiglia, col lavoro, sono tanti i conflitti che uno affronta nella propria società, nella propria vita, e spesso ci sono dei momenti di caduta, certo, di depressione, e se lì si viene presi dalla psichiatria, parlo dell'esempio italiano, ma penso in America forse sia ancora peggio, si entra in un girone infernale di cui difficilmente si esce, proprio perché la maggior parte degli psichiatri ritiene che la malattia mentale sia come il diabete, quindi devi curarti tutta la vita. Questo è l'inganno psichiatrico di cui ci parlava Whitaker oggi. Vuoi aggiungere qualcosa, Diego? Sì. No, solo ricordare che in questo paese ci sono 320 reparti psichiatrici ospedalieri, cioè SPDC, servizi psichiatrici di diagnosi e cura, dove nell'80% dei casi si lega ancora, cioè si usa la contenzione meccanica. Quindi il paradigma della contenzione meccanica non l'abbiamo superato per niente. Cioè chi fa la terapia non restraint sono il 20% dei reparti ospedalieri. Quindi purtroppo in questo paese la contenzione meccanica quindi legare a letto una persona mani e piedi, è ancora pensato come uno strumento terapeutico, quando cioè, vari studi e la pratica eccetera l'abbiamo lungamente superato. Poi il problema è sicuramente la contenzione chimica, con questa Nora abbiamo, cioè, oggi ne abbiamo parlato lungamente, però ecco, ancora in questo paese si fa l'elettroshock. Posso provare a fare un attimo l'avvocato del diavolo? Prego. No, allora, appunto, no, parlando delle strutture, delle contenzioni che vengono utilizzate e di come queste, diciamo, sono state appunto questi concetti anche della farmacologia che arriva dagli Stati Uniti, è stata assorbita dal sistema sanitario. Noi ci ritroviamo all'interno di un sistema che molto spesso non ha dice di non avere grandi risorse e comunque la cura della malattia psichiatrica viene tendenzialmente rimandata a strutture di tipo privato, quindi strutture a tutti gli effetti aziendali che secondo le logiche aziendali tendono utilizzare i metodi meno dispersivi e meno costosi, anziché creare, come diceva Robert, come dicevate anche voi, un ambiente tutto intorno che porti a una cura vera e propria. Quindi poi parliamo di problemi teorici, ma poi quando andiamo a vedere nella pratica c'è comunque magari un operatore in un reparto che si trova a gestire 10 persone e laddove non ci sono dei tipi di contenzione, certo è anche un lavoratore a rischio da un punto di vista proprio di salute, cioè di salute, ecco, anche di sicurezza sul luogo di lavoro. Quindi da quello che dite voi si deve cambiare tutto. Sì, cioè la 180 non ha impedito il riorganizzarsi della psichiatria in base al paradigma biologico. Questa cosa non è successa. La psichiatria ci ripropone la centralità degli squilibri chimici nel nostro cervello. Noi bisogna approcciarsi alle persone. Quindi le terapie come la psicoterapia o altre, no? O altri tipi di terapia, da quella farmacologica, non hanno lo stesso potere della psichiatria. Non sono considerate come terapie ancillari, non sono prese in considerazione. Le persone sono differenti l'una dall'altra. Ognuno dovremmo fare una terapia per chi la chiede, per chi la sceglie, senza obbligare nessuno, basata sull'individuo, sull'ascolto, le problematiche dell'individuo. Realmente è chiaro che purtroppo in questo paese, ma insomma nella psichiatria occidentale, c'è una risposta unica per tutti, che è il farmaco, che chiaramente costa meno, però ci guadagnano sempre soldi. C'è le multinazionali è più facile, più semplice, invece che mettere la persona insieme a un operatore che è specializzato, che abbiamo formato, che fa un approccio pedagogico, educativo, sociale, o creare delle comunità. È chiaro che questo è una spesa in base in termini di soldi, di tempo, di formazione, eccetera, però noi dobbiamo andare verso questo modello. Perché se vogliamo realmente mettere le mani e non creare, cronicizzare, perché poi queste persone che prendono psicofarmaci una vita sono un carico al Servizio Sanitario Nazionale, prendono una pensione. Cioè, quando Bob dice l'epoca, cioè c'è un aumento di salario della psichiatria, questo si paga noi. La domanda che mi viene naturale, la pongo a voi, ma anche a Robert, è quella: se abbiamo compreso che l'approccio farmacologico non può essere l'unico approccio, non può essere l'approccio principale alla disabilità, ai problemi di salute mentale. Può essere uno degli strumenti, però. Yeah, the problem we've had is thinking that they're the primary solution forever. In other words, that you're curing some illness. So that conception has failed. But if you conceive of drugs that maybe can tranquilize people when they're extremely agitated, that can be helpful, right? Sometimes when people are extremely anxious, if you want to bring down that anxiety, you can use them for a short term for that purpose. So rather than thinking them of cures, thinking them of things as like sedatives or, you know, just drugs that can take the edge off of your anxiety or help you go to sleep, those can be helpful agents. And the best thing we can say is there, over the long term, there's a small group of people, both with antipsychotics and antidepressants, who seem to do pretty well on those drugs. But the biggest thing is to reconceive of the drugs. They're not fixing an illness. So you can use them when you want to, you know, someone needs to go to sleep, needs to sort of get their anxiety down. Yeah, they can be very helpful in certain times. Il problema è che gli psicofarmaci sono usati come soluzione primaria per sempre, quindi a lungo termine. Però in realtà se li usiamo a volte per tranquillizzare i pazienti in dei momenti estremi, oppure per sedare l'ansia o per indurre a dormire, quindi a breve termine, lì allora abbiamo un uso efficace dello psicofarmaco. Abbiamo visto che solo un piccolo gruppo di persone ha effetti benefici a lungo termine nell'uso degli psicofarmaci, perché essi non curano la malattia. Bene, quindi diciamo, analizzando gli aspetti che fanno sì che una persona stia bene, secondo appunto il concetto della salute che si è esteso a benessere sia fisico che psicologico che sociale, si può dire che questi bisogni non sono così diversi fra una persona con problemi mentali e una persona che invece questi problemi non ce l'ha o pare che non ce li abbia, ecco. Voglio dire che secondo la definizione che ci dà l'Organizzazione Mondiale della Sanità di salute, i bisogni di una persona sono gli stessi che tu sia malato o che tu non sia malato. So the needs of a person, a healthy person, considered healthy by the National Organization of Health and a non and a psychiatric patient are the same. Ah, yeah. This is the way to flip this whole story. So rather than saying this person has an illness or something, let's talk about what people need to stay well or to be well, and what we all need really. It's helpful to have good food. It is helpful to sleep. It's good to have exercise. Even more important is to have some sort of social world. It's very important to have a place in that world, to have some meaning in your life. So all these things that you know you need to be well, that's what everybody needs to be well. So when you see someone who's distressed and struggling, rather than try to cure that, oh, we're going to remove that symptom, think about how you can build up an environment around them that's healthier physically, healthier emotionally, and people will respond to that environment. Sì, in questa maniera possiamo veramente cambiare la storia, perché anziché vedere una persona che soffre per una malattia, cerchiamo di cambiare l'ambiente intorno a lui e modificare la sua vita, quindi fare veramente quello che può farlo star bene, avere una dieta sana, esercizio fisico, dormire bene, una vita sociale positiva, avere una vita significativa. Questi cambiamenti allora possono veramente creare un cerchio positivo intorno alle persone. Ne beneficia di più di questo cerchio positivo la persona che arriva da un problema di salute mentale o la comunità che lo circonda? Well, it'll help both. This is the whole point. If you build a society that is healthier for people, it's healthier for children, it helps people socialize with each other and be physically healthy, well, that's benefit for everybody, right? You're creating a healthier society. And I really think you can see if you have more and more people who are struggling with mental disorders, that's like a canary in the gold mine, a canary in the mine saying, something's wrong with your society if people are so stressed out and you know, struggling with so much depression, anxiety, etc. So it's telling you need to try to create a more nurturing society. Sì, aiuteremo entrambi. Infatti, se costruiamo una società in cui le persone e i bambini stanno bene, allora tutti ne beneficeranno. Infatti, avere una società in cui ci sono tantissimi l'aumento di disordini mentali è un campanello d'allarme, è come un canarino in una miniera. Vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Volete intervenire? No, quello che vorrei dire come collettivo è proprio denunciare quello che un po' dicevamo prima, quello che sta succedendo nella nostra società. Senz'altro è una società che crea disagio. I modelli lavorativi imposti, i modelli che ci vengono dati, non aiutano certo a ritrovare se stessi, eccetera. E quindi a viversi bene la vita. Noi lo vediamo anche nella pratica del collettivo. Noi abbiamo attivato un telefono di ascolto da ormai parecchi anni e abbiamo ricevuto centinaia di chiamate, e da questo possiamo dire che ci rendiamo conto che la maggior parte dei problemi che le persone hanno vengono dalla famiglia. La famiglia è senz'altro generatrice di disagio, e si può ben comprendere, perché in un ambiente ristretto come quello di una casa, in cui uno è costretto a vivere magari con un familiare con cui non va d'accordo, con cui non c'è sintonia, non c'è empatia, l'essere costretti a vivere in un ambiente chiuso dove si devono dividere certe dinamiche porta a un conflitto. E un'altra prova l'abbiamo per esempio nell'ambiente carcerario, dove ormai si dice che la maggior parte dei detenuti soffre di turbe psichiche, e questo è un chiaro segno che anche lì, dove c'è una reclusione, una chiusura, ci saranno malattie mentali, però non sono reali malattie, cioè non sono malattie realmente mentali, sono malattie sociali indotte dal luogo, dal setting dove uno vive. Un altro esempio per noi plateale è quello che sta accadendo, fra l'altro noi lo denunciamo spesso, che sta accadendo in molti paesi. Per esempio io cito spesso la Palestina, che conosco abbastanza, la striscia di Gaza. Ormai tutti i medici dicono che il 90% dei bambini soffre di malattie mentali, diciamo PTSD, disturbo da stress post-traumatico, una nuova patologia che è stata introdotta, no? Per definire lo stress che uno può avere vivendo in un paese come la Palestina, in particolare la striscia di Gaza, dove si vive praticamente sotto le bombe da 12 anni. È ovvio che un bimbo sviluppa dei problemi, però questo per noi è la prova che questa non è malattia mentale, è proprio l'occupazione israeliana in questo caso quello che gli fa soffrire, e quindi non è certo con i farmaci, come purtroppo molte ONG ormai guidate dal DSM 4, 5, adesso ormai siamo al quinto manuale diagnostico americano, in cui sempre più comportamenti vengono medicalizzati. Credo siamo a quota 320 comportamenti che vogliono dire malattia. Le difficoltà economiche sono uno dei fattori che porta... Come? Le difficoltà economiche sono uno dei fattori che... Certo. E lo vediamo anche per esempio con i migranti che arrivano da noi con una traversata così perigliosa, spesso sono vittime della psichiatria, perché è più semplice trattarli con i farmaci piuttosto che andare a vedere le cause. Fra l'altro denunciamo che la Regione Toscana ha ricevuto un finanziamento di 1 milione di euro proprio per trattare le vittime da torture. In realtà poi andiamo a vedere, 950.000 di questi euro sono stati dati ai dipartimenti di salute mentale per curare con i farmaci, quindi col sistema psichiatrico nostro, coloro che arrivano dalle guerre in Italia. Questo è purtroppo quello che cercano di fare. È il connubio fra controllo e business che rende la psichiatria così pericolosa. Bene, avete sentito la voce di un attivista del collettivo Antonino Artaud? Ho visto la mano alzata? No? Ok. Sì, niente, è un collettivo pisano, fra l'altro diciamo con sede a Pisa. Presenteranno il libro di Robert nei prossimi giorni, se non mi sbaglio. Sì, domani sarà a Modena, lunedì sarà a Pisa, poi andrà a Roma. A Pisa saremo all'Università a Scienze Politiche, nel pomeriggio alle 6, mi pare, alle 5. 5 del pomeriggio di lunedì, e poi sarà a Roma presso l'altro collettivo, il collettivo Senza Numero. Diciamo che siamo molto orgogliosi di aver organizzato questo giro, questo tour per l'Italia nei vari telefoni viola, collettivi che si occupano di contrastare il potere psichiatrico. Bene, sì, potete anche lasciare un contatto se avete una pagina dove ascoltarci. Sì, noi basta andare su Antipsichiatria Pisa e trovate tutto, collettivo antipsichiatrico Antonino Artaud, comunque è Artaud Pisa, no blogs. .org. Detto bene. Bene, avete eventi? Poi abbiamo anche un numero di telefono, eventualmente si trova anche sul sito, quindi abbiamo anche un telefono di ascolto e facciamo sportello di ascolto 2 volte al mese. per le persone che si sentono abusate dalla psichiatria, quindi cerchiamo di dare una... Avete eventi in prossimità, nei prossimi... Abbiamo alle Oblate un'iniziativa del 18 in cui siamo stati invitati nell'ambito delle celebrazioni della quarantennale della legge Basaglia. Ci confronteremo anche, credo, con psichiatri e personaggi istituzionali e siamo ben contenti di andarci e dire la nostra, anche proprio a partire dalle nostre pratiche. E poi credo che saremo... Il 25. Dove? In Polveriera. Ah, in Polveriera, giusto, in Polveriera siamo stati invitati a parlare del taser, perché è stata usata questa pistola elettrica per la prima volta a Firenze, guarda caso, su una persona che poi è stata portata in TSO. Esatto, fra l'altro questa era l'ultima domanda che io volevo porre a voi e a Robert, proprio riguardo a questo fatto che uno strumento di repressione, di fatto, da quello che ho potuto vedere, viene spesso utilizzato su persone con un trascorso o con in atto una disabilità di tipo psichico. È il caso del ragazzo 24enne fiorentino che, se non mi sbaglio, era inizio era turco, il 12 settembre a Firenze. Fra l'altro era uscito dal reparto di psichiatria di Santa Maria Nuova giusto 9 giorni prima, è stato colpito da 2 dardi del taser sparati dalla polizia o carabinieri, non mi ricordo, dai carabinieri, perché si era spogliato, era in una piazza e ha detto loro molestava, dava fastidio a delle persone. Quindi qua si vede uno strumento di repressione che va a colpire un determinato tipo di persone, nelle quali purtroppo spesso sono compresi casi come quello fiorentino, quindi di persone con una difficoltà da un punto di vista di salute mentale. Sì, ci ha colpito molto anche a noi la cosa. Fra l'altro questa persona avevamo avuto un contatto, cioè ci aveva chiamato una persona che l'aveva conosciuto prima del ricovero in TSO ed era evidentemente una persona in difficoltà e non ha trovato evidentemente nella nostra società un aiuto, un confronto, ed è finita così. Poi io non sappiamo ovviamente i particolari esattamente di come poi è finita, come è avvenuto il fatto. A noi ci colpisce particolarmente l'utilizzo del taser, visto che come collettivo abbiamo scritto un libro sull'elettroshock, quindi proprio sulla corrente elettrica sul corpo umano, come si è arrivati a utilizzare la corrente elettrica sul corpo umano. E proprio su questo abbiamo scritto un libro interessante che va a vedere fin dall'inizio l'utilizzo della corrente elettrica come... E il taser ci fa paura, è chiaro che poi in mano alle forze dell'ordine sappiamo bene come può essere pericoloso. Andremo. Questo è in uso, da pochissimo tempo in Italia, ma negli Stati Uniti invece è uno strumento. So che ha fatto già diversi morti, forse Bob ci può dire qualcosa di più. Yeah, so we have had a number of cases where police have been called to a disturbance, and the person, you know, has a psychiatric problem, and that's resulted in death. There's been a number of such cases. One time there was someone strangled, basically suffocated on a public walk. There's been people shot. I don't know so much about I can't remember exactly with taser, but they're all in this thing of violent acts against people in this way. So because of this, there's been a number of deaths in the United States like this. There is some effort now to do some police training that when they come into a situation with a psychiatric patient, that they need to restrain use the normal use of force. And we have pretty aggressive police in the United States these days, so it's something we need to work on. Ci sono stati numerosi casi in cui veniva chiamata la polizia perché c'era una persona che manifestava dei disturbi psichiatrici E poi la situazione veniva risolta con l'uso del taser, che però poi spesso ha anche indotto alla morte della persona in questione. Anche in momenti di tipo in marce pubbliche, gli atti di violenza da parte della polizia, che poi ha portato a soffocamento o comunque morte violenta delle persone. E quindi ora si sta introducendo programmi di training per la polizia per essere meno violenta, ma è comunque un caso molto grave. Remember, we often shoot people. We don't just tase them. We shoot people in the United States. Go ahead. Sì, come sapete, negli Stati Uniti non solo si usa il taser, ma si spara anche. Sì. Già, anche da noi, purtroppo. Bene, io ho esaurito le domande, quindi se ci sono altri interventi, se no... facciamo andare a riposare tutti, anche Robert, che oggi ha parlato veramente diverse ore. E... Giusto, è vero, l'edizione italiana del libro è un libro che è stato pubblicato nel 2010, tradotto e lo possiamo trovare dal collettivo antipsichiatrico Antonino Artaud. Sì, si può ordinare, sì, verso la casa editrice. Bene. Vi suggeriamo a tutti naturalmente di leggerlo e di cercare di approcciarsi a questo tema in un modo estremamente diverso, visto che tutti noi ne abbiamo bisogno. Con questo ringraziamo e salutiamo Robert, ringraziamo e salutiamo i compagni e le compagne del collettivo Antonino Artaud. Grazie. Grazie a ciao a tutti. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie. You can have another career. Oh, God.